Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. In molti ricorderanno l'emergenza dei mutui di 2 anni fa, quando la crisi finanziaria toccava il suo culmine, i tassi di interesse erano schizzati alle stelle, devastando i bilanci di molte famiglie, alle prese con un impegno mensile che era diventato in molti casi insostenibile, appunto quello con la rata del mutuo. In quel momento scattarono diverse iniziative che avevano proprio l'obiettivo di ridare fiato alle migliaia di titolari di mutui ipotecari che non ce la facevano più rimborsarlo. Ci furono il piano Tremonti, che permise a chi decise di aderire di riportare i tassi sui livelli antecedenti la crisi, e poi c'è stato il piano famiglie promosso dall'ABI, l'associazione delle banche italiane, volto a permettere una sospensione temporanea del pagamento delle rate, un'opportunità di cui hanno approfittato, questo è un bilancio fatto al giugno scorso, 24.000 famiglie. E però di famiglie in difficoltà con il mutuo ce ne sono ancora molte, perché in tante case si è perso il posto di lavoro, in tante case è arrivata la cassa integrazione e insomma difficoltà crescenti. Questa consapevolezza ha accelerato l'attivazione dopo 3 anni di attesa, visto che la proposta era stata inserita nella finanziaria del 2008, del Fondo di Solidarietà per i Mutui sulla Prima Casa, iniziativa promossa dal Ministero del Tesoro a seguito di una lunga battaglia condotta dall'Associazione Donne Europee Federcasalinghe. Come funziona questo fondo? Che condizioni sono necessarie per potervi accedere? Tra l'altro sarebbe dovuto partire il 2 settembre, in realtà ci sarà qualche ritardo, di cui ieri ha parlato diffusamente il Sole 24 Ore. A seguire la questione Maximilian Cellino, il nostro collega che tra un po' ci raggiungerà a Salva Danaio, ma nel frattempo io saluto anche, per essere con noi questa mattina, la ringrazio, Federica Rossi Gasparrini, presidente dell'Associazione Donne Europee Federcasalinghe, che è stata proprio la protagonista di questa battaglia. Ha fatto anche uno sciopero della fame quest'estate per arrivare ad un risultato, diciamo un'iniziativa che è un po' passata sotto silenzio, poi ne parleremo, l'importante è che però a questo risultato ci siamo arrivati. Presidente Gasparrini, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, naturalmente, microfoni aperti non solo ai nostri ospiti, non solo a me, ma soprattutto a voi. All'800 24 00 24 potete chiamare per rivolgerci le vostre domande sul funzionamento di questo fondo, naturalmente, o anche sulle altre iniziative che potrebbero permettervi di fare una chiacchierata con la banca per alleggerire questo peso, che oggi non è più provocato dall'aumento della rata, dall'aumento dei tassi di interesse, perché sono ancora ai minimi storici, ma magari in ogni caso potrebbero essere cambiate le condizioni reddituali della famiglia, e quindi anche magari una rata non molto alta è comunque un peso troppo importante, troppo faticoso da sostenere, quindi momentaneamente dovrebbe essere sospeso. Ne parleremo di tutto questo. Adesso però un'occhiata alla borsa, come facciamo sempre, perché è una borsa che oggi, anche in questo caso stamattina abbiamo utilizzato più volte questa immagine, quella del sospiro di sollievo, e è un'immagine che possiamo utilizzare anche per scattare la fotografia della giornata di borsa. Dopo 5 giornate consecutive di ribassi, oggi l'Europa riprende un po' di vigore e guadagna un punto, non su tutti i listini, soprattutto questo guadagno lo vediamo adesso a Piazza Affari. Bene anche Parigi, più 0,88%, Francoforte più 0,54%, Londra più 0,77%. L'Europa respira, nonostante ieri siano arrivati nuovi dati economici deludenti dagli Stati Uniti, respira grazie invece alla buona trimestrale che è arrivata da un colosso bancario europeo, Crédit Agricole, che stamattina guida i rialzi di Parigi, ma soprattutto dà una bella spinta a tutti i titoli del settore bancario in Europa. Monte dei Paschi è il miglior titolo di Milano, sta guadagnando il 2,60%, Atlantia, la ex Autostrade, più 2,35%, Exor più 2,19%, Intesa, San Paolo più 1,92%, Intesa ha diffuso la semestrale della controllata Fideura nel settore del risparmio gestito, che ha visto l'utile netto salire bene, quindi su questa indicazione cresce anche Intesa. La Popolare di Milano più 1,92%, Azimut più 1,89%. Oggi però il settore del risparmio gestito è sotto i riflettori anche per un'altra iniziativa, perché Unicredit potrebbe cedere la sua controllata Pioneer. Unicredit guadagna l'1,57%, proprio il Crédit Agricole si sarebbe fatto avanti eventualmente con un interesse per questa controllata, e quindi oggi insomma tutto questo settore è un po' in fermento per queste notizie. In calo Ansaldo, peggior titolo della seduta in questo momento insieme a Terna, perdono entrambe lo 0,3%, Snam Rete Gas meno 0,27%, e poi abbiamo invariate A2A e Enel, quindi titoli difensivi sono oggi quelli che risultano un po' più penalizzati dagli investitori. Euro su dollaro, di nuovo sopra quota 1,27, la moneta unica europea sul dollaro, in rapporto allo yen l'euro è a 107,56, dollaro yen a 84,58, lo yen si è un po' calmato dopo la corsa degli ultimi giorni, ma comunque sempre su livelli piuttosto alti. Ancora non si è vista questa iniziativa del governo giapponese per frenare questa cavalcata della divisa nipponica, ma comunque la preannunciata intenzione di intraprendere qualche iniziativa a questa corsa, quantomeno l'ha fermata negli ultimi due giorni. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Mutui, arriva il fondo di solidarietà del governo. La perdita del posto di lavoro, la malattia di un familiare, il sopraggiungere di spese straordinarie per la manutenzione. Sono tanti gli imprevisti che possono mettere una famiglia in seria difficoltà nel sostenere il mutuo per la propria abitazione. Non ultima, l'eventualità di un aumento inatteso e gravoso delle rate. Viste anche le incertezze dell'attuale situazione economica, sono state lanciate diverse iniziative nel tentativo di limitare i disagi che ruotano intorno alla casa. Ad esempio, il bonus del 36% per le ristrutturazioni degli immobili, circa 280.000 domande dall'inizio dell'anno, e il piano famiglie varato dall'ABI a gennaio, grazie al quale sono stati sospesi finora circa 24.000 mutui. L'ultima novità si chiama Fondo di solidarietà sui mutui per la prima casa, attivo dal prossimo 2 settembre, che dovrebbe offrire opportunità ancora maggiori rispetto al piano ABI, sempre per consentire, in caso di necessità, di interrompere il pagamento per un massimo di 18 mesi. Gli interessi che maturano durante la sospensione sono a carico della banca, che può richiederne il rimborso al fondo, per cui sono stati stanziati 20 milioni di euro. Per ottenere lo stop delle rate, il profilo del richiedente, oltre naturalmente ad attestare una criticità della situazione familiare che rientra tra quelle previste, deve rispettare determinati requisiti: reddito entro i 30.000 euro, ammontare complessivo del finanziamento di massimo 250.000 euro e un mutuo in ammortamento da almeno un anno. 800240024 è il numero verde per le vostre domande, per i vostri interventi. Allora, io ho notato che c'è già un'ascoltatrice che si è prenotata al centralino, al nostro centralino, un'ascoltatrice che vorrebbe sapere se, dovendo stipulare il mutuo a settembre-ottobre, rientra nel fondo di cui stiamo parlando. Allora, Anna Maria, io non la faccio ricontattare e le rispondo direttamente. Se ha ben capito dalla premessa che abbiamo fatto, noi ci rivolgiamo alle famiglie che stanno già pagando il mutuo e che non riescono a pagare la rata mensile perché è subentrata una situazione di difficoltà. Lei, dovendolo stipulare a settembre-ottobre, è evidente che ha negoziato con la banca tutte le condizioni per poterlo ottenere, questa rata la può pagare, quindi eventualmente io spero che tanto lei non ne abbia mai bisogno di dover aderire a questo fondo, perché appunto vuole aiutare chi non ce la fa, chi non può pagare la rata, e quindi spero di essere stata chiara, insomma non c'era molto da dire rispetto alla domanda che lei ci ha fatto. Maximilian, io ho già salutato la presidente di Federcasalinghe Donne Europee, Federica Rossi Gasparini, do il saluto anche a te, benvenuto, bentornato, passate bene le vacanze, sei sempre stato invece a vigilare sul mondo dei mutui, della finanza internazionale, anzi ho anche visto in attesa del fondo di solidarietà. Allora, praticamente non ho salutato, racconto tutti in retroscena così impari, non ho salutato subito Maximilian perché mi ha chiesto un attimo di tempo per ritornare in redazione, dove ha voluto fare un calcolo rapido, perché lui insomma ha un monitoraggio sempre molto accurato su tutto ciò che attiene al mondo dei mutui, su quante famiglie potenzialmente potrebbero essere interessate all'adesione a questo fondo di solidarietà. Maximilian, 24.000 famiglie che hanno aderito al piano famiglie dell'ABI, l'associazione delle banche italiane, invece siccome i parametri sono diversi, tu hai calcolato che altre migliaia potrebbero essere interessate al fondo. Quante? No, in realtà io ho fatto un altro tipo di calcolo. Ho calcolato, siccome il fondo ha in dotazione 20 milioni di euro, si può calcolare, e questi 20 milioni di euro serviranno le banche potranno richiedere parte degli interessi che maturano in questo periodo di sospensione, e che a differenza del piano famiglie non sono a carico delle stesse famiglie ma sono a carico delle banche, le banche potranno chiedere una parte di rimborso. È ovvio che finché questo fondo avrà soldi materialmente potrà funzionare. Nel momento in cui questi 20 milioni si andranno ad esaurire ci sarà bisogno che un'altra finanziaria sia lì a destinare dell'altro denaro. E 20 milioni di euro, a meno che non si dica che verranno accolte le richieste delle famiglie fino ad esaurimento di questo fondo, perché anche però il fondo ha un funzionamento diverso rispetto al piano. Il piano famiglie è semplicemente un appunto un'iniziativa per cui si spostano in avanti le rate del mutuo e poi uno gli interessi se li paga in fondo o quando ricomincia a pagare le rate. Il fondo è diverso, cioè qui si fa una richiesta di aderire al fondo. Il fondo funziona in questa maniera: finché ha soldi paga. Materialmente, quando i soldi sono finiti, diciamo che prima arriva ben alloggia da questo punto di vista. E quindi tutto questo ragionamento, che risultato tutto questo ti ragionamento ha portato? Per fare dei calcoli che in effetti non sono molte le famiglie che potranno aderire a questo fondo se i soldi rimangono questi, se rimangono 20 milioni. Questi 20 milioni saranno destinati a pagare anche il gestore, il servizio del gestore, chi materialmente gestirà tutte le operazioni, di cui non si sa ancora il nome e di cui non si sa soprattutto il costo, e poi appunto a rimborsare alle banche il denaro. E un calcolo così a spanne, se bisogna, dipende dai valori di Euribor e IRS, che magari i mutuatari conoscono abbastanza bene. Se i valori sono questi, si può calcolare che un mutuo da 100.000 euro, con 100.000 euro ancora da rendere, e 20 anni, se fossero tutti così, un mutuo medio del genere, potrebbero aderire sui tra i 10 e le 15.000 famiglie. Ovviamente la cosa cambia per i mutui a tasso fisso, che sarebbero più cari. Certo, per il gestore. Per il gestore, per chi deve... che deve restituire la quota di interesse. Quindi se fossero tutti paradossalmente a tasso fisso, fatto quando un IRS era per esempio al 4%, potrebbero aderire soltanto 3.000-4.000 famiglie. Però insomma sono tutte quante ipotesi delle quali possiamo solamente parlare così in termini molto vaghi, però insomma intanto il fondo c'è e questo è un risultato della quale è molto contenta e molto soddisfatta, come dicevo in apertura, Federica Rossi Gasparrini, presidente dell'Associazione Donne Europee Federcasalinghe. Perché? Perché questa è un'iniziativa sua, l'ha portata avanti per 3 anni con grande forza, con grande vigore, fino ad arrivare quest'estate. Io mi ricordo che un giorno mi ha telefonato chiedendomi un aiuto, uno sciopero della fame, per sollecitare l'attenzione proprio nel momento in cui peraltro per lo scontro politico era molto acceso e indirizzato su tutt'altre cose, quindi diciamo anche la sua iniziativa ha avuto sicuramente scarso clamore, scarsa attenzione da parte dei media. Detto questo, Presidente, il risultato è arrivato, insomma 3 anni di battaglia, come dicevo. Perché lei 3 anni fa aveva pensato a questa iniziativa? Ricordiamo benissimo l'emergenza dei mutui e tutte le iniziative che sono state intraprese per aiutare le famiglie. Come era nata la sua iniziativa? Era da un parlamentare che ero io, vedendo il disastro che colpiva le famiglie che avevano scelto i mutui a tasso variabile, perché davvero la Banca Centrale Europea, a nostro parere, stava esagerando col costante aumento degli tassi di interesse. Sì, anche se poi erano quelli di mercato, quindi la Banca Centrale Europea li ha potuto fare ben poco. Ricordo con tristezza che si è anche ucciso un operaio disperato in provincia di Ancona perché non poteva più pagare il mutuo. Cioè, sulle famiglie deboli, certe situazioni di macroeconomia possono creare disagi enormi, e quindi presentai un progetto di legge chiedendo all'ABI il confronto, perché non era un tema di cui io fossi molto approfondita, e lo presentai e andò in finanziaria come emendamento approvato. Quello che vorrei dire, per le giuste osservazioni di Cellino prima, è questo: che essendo un passaggio di finanziaria può essere facile via via nelle finanziarie ricostruire gli stanziamenti. È finito emendamento approvato con la finanziaria votata nel 2007, quindi c'è un percorso precedente. Quello che però desidero sottolineare, prima di tutto ringrazio lei, Radio 24, perché ha sempre seguito questa vicenda con attenzione, ma voglio dire che è un grande diritto che i cittadini hanno acquisito. Prima un cittadino che non riusciva a pagare il mutuo non aveva diritto o per l'ABI o per il fondo alla sospensione, perché l'ABI è intervenuta visto che proprio il regolamento non usciva, e invece oggi questo regolamento dà, e la legge precedente, ai cittadini un diritto, il diritto di sospendere il mutuo in certe condizioni. Beh, certo, credo è stato che la anche politica debba fare questo, dare ai cittadini dei diritti di garanzia. Diciamo che in passato è emerso anche un altro problema negli ultimi anni, che le famiglie che sono diventate proprietarie di un immobile sono aumentate a dismisura, si sono indebitate con finanziamenti molto alti, molto importanti per un lungo periodo di tempo, e chiaramente il sistema bancario non ha nessun interesse a ritrovarsi sul groppone centinaia di migliaia di famiglie che non pagano, piuttosto quindi è stata, come dire, costretta per tutta una serie di fattori a trovare questi compromessi, Maximilian, per non trovarsi proprio poi in problemi molto più seri, direi. Quindi diritto acquisito da una parte, ma come dire, anche una sorta di obbligo da parte del sistema bancario per non come dire, far esplodere altri tipi di emergenze, cioè quelle di famiglie che non pagano e quindi pignoramenti, ipoteche che scattano e tutta una serie di problematiche, insomma, che però per fortuna non dobbiamo affrontare in questa circostanza. Parliamo un po' concretamente di questo fondo di solidarietà, Maximilian. 2 settembre dovrebbe partire, alla luce di tutte le tutte le questioni che hai sollevato sul Sole 24 Ore, di chiarimenti che mancano, difficilmente questa data potrà essere rispettata, credo. Sì, è difficile perché il gestore, appunto la società a capitale pubblico che dovrà materialmente gestire questa iniziativa, non è stato ancora selezionato. C'è la necessità di altri regolamenti che devono dare alcuni chiarimenti su delle questioni che rimangono un po' in sospeso, regolamenti che dovrà fare il Ministero del Tesoro. Io qualche giorno fa ho rievocato la vicenda del tetto al 4%, sì, augurandomi che non si faccia la stessa, che non ci siano gli stessi tempi, perché chi ha un mutuo a tasso variabile si ricorda di questa iniziativa, che ha avuto bisogno almeno di almeno 3 circolari ministeriali di chiarimento e di un periodo di gestazione di almeno 6 mesi. La speranza è che qui si faccia prima, perché è vero che c'è un'altra iniziativa, quella dell'ABI, che si chiama Piano Famiglie, che aiuta e permette la sospensione da parte delle banche. È vero che anche molte banche applicano sospensioni autonome, però questo tipo di sospensione, questa del fondo di solidarietà, ha delle caratteristiche particolari, che è complementare alle altre iniziative, e soprattutto, io lo ricordo ancora una volta, è a costo zero per il mutuatario, cosa che invece non avviene negli altri tipi di sospensione. Ecco, gli altri aspetti, Maximilian, poi senti, guarda, facciamo una cosa, prima di mettere magari a confronto fondo di solidarietà e piano famiglie, per capire anche se è bene recarsi in banca per chiedere l'attivazione di un sostegno piuttosto che di un altro, o di un sostegno, di un ammortizzatore, chiamiamoli così, adesso non saprei neanche come definirli, perché di un aiuto piuttosto che dell'altro, da parte delle famiglie appunto che ne avrebbero bisogno, direi di cominciare a sentire anche ai nostri ascoltatori, cominciando con Giuseppe da Prato, che saluto. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi richiamato. Senta, volevo chiedere, io ho un mutuo che quindicennale in scadenza e che ho iniziato 10 anni fa a pagare nei 2000. Ho già avuto una sospensione un anno e mezzo fa, che è finita a dicembre dello scorso anno, però siccome mia moglie è in mobilità ancora, e quindi, insomma, non ce la fa. A me mi ha detto il Monte dei Paschi, quando sono andato a gennaio, che non si poteva avere una seconda sospensione. Ora, con questa nuova normativa, si potrà richiedere la sospensione, e spero di ottenerla. Giuseppe, la ringrazio. Allora, Federica Rossi Gasparrini, visto che lei ha seguito anche il percorso di legge, questo poi lo richiedo anche a Maximilian, non sa anche lui, non è ancora ben chiaro se chi ha aderito già ad una sospensione possa fare richiesta per una seconda opzione. Di fatto però molte persone potrebbero non aver risolto la situazione di difficoltà economica. Certo. E quindi... Ancora non è chiaro, come appunto stava dicendo, che se chi ha avuto la precedente sospensione AVI possa accedere qua. Secondo me tecnicamente non ci sono difficoltà, ma soprattutto nel caso della persona che ha chiamato non dovrebbero esserci difficoltà di nessun genere, se lui ricade dentro nelle condizioni descritte, perdita di lavoro, problemi perché in famiglia si è ammalato gravemente qualcuno, problemi di ristrutturazione, cioè se ha queste caratteristiche, a mio parere può richiederlo. Certo. Sì. Maximilian, ricordo sì. Una cosa importante, certo, che questi 18 mesi possono anche essere, se in condizioni non si sono risolti i richiesti per ulteriore periodo sul fondo pubblico, sul fondo di solidarietà. Maximilian, questo dicevamo, sì, ci vuoi soffermare, insomma, soffermarti ancora un po' sulle questioni da risolvere. Io posso aggiungere che la legge non chiarisce, e questo sarà appunto uno degli aspetti che successive spiegazioni da parte del Ministero ci dovranno aiutare appunto a chiarire questo è uno dei problemi. Se lo spirito è quello di aiutare veramente le persone che ne hanno bisogno, io non vedo perché non si debba concedere una seconda sospensione a una famiglia che l'ha già avuto. Certo, deve avere quelle caratteristiche che permettono di richiedere il fondo di solidarietà. Non so se il fatto che la moglie sia semplicemente in mobilità sia sufficiente, anzi non credo, insomma, dovrebbe esserci la perdita del lavoro. Infatti stavo valutando proprio questo, perché il fondo di solidarietà prevede esplicitamente di poter sostenere le persone all'interno del cui nucleo familiare si è verificata la perdita del posto di lavoro. La cassa integrazione, per esempio, la prevedeva il piano famiglie. La mobilità è una questione ancora differente, poi c'è una differenza anche reddituale. Per il piano famiglie la richiesta poteva essere soddisfatta nel caso in cui ci fosse un massimo di reddito imponibile di 40.000 euro, nel caso del fondo di solidarietà il tetto è più basso, Maximilian. No, non è detto che sia più basso, è semplicemente un indicatore diverso. L'indicatore si chiama indicatore della situazione economica equivalente, ISEE, è una cosa, mi rendo conto, molto complicata anche a spiegare per però radio. Però in realtà è un indicatore che molte famiglie calcolano perché serve per gli asili, per tante cose, per cui magari... Sì, è semplicemente tiene conto, oltre che del reddito imponibile lordo, come erano i 40.000 euro per il piano famiglie, tiene conto anche del patrimonio della famiglia, della situazione dell'indebitamento della famiglia, anche delle caratteristiche del nucleo familiare. Per esempio, una persona in teoria può avere un reddito molto elevato, ma se ha sei figli o sei persone a carico, è chiaro che l'indicatore ISEE scende molto e quindi potrebbe, certo, paradossalmente non rientrare nel piano famiglie, ma rientrare nel fondo di solidarietà. Eccoci di nuovo in diretta con Salva Danaio, e oggi, anche a dispetto di quelli che si stanno arrabbiando perché dicono, insomma, vi state continuando ad occupare di tutto coloro che in passato hanno fatto il passo più lungo della gamba, io contesto vivacemente queste considerazioni, perché tutti abbiamo il diritto ad una casa, tutti abbiamo il diritto di acquistarla e tutti abbiamo trovato il placito a un microfono, o una cuffia che non mi funziona in questo momento, non abbiamo fatta così in maniera, molti magari l'hanno fatta in maniera un po' più incauta rispetto a quella che potevano fare, magari così cioè, acquistandosi una casa più grande di quella che potevano permettersi e quant'altro, però insomma le banche ci sono venute incontro in tutte queste operazioni, per cui è giusto che tutti insieme si trovino. La crisi economica che ci ha devastato però qualcuno, come dire, l'ha subita in maniera non cercata, credo, quindi qui rispondo a tutti quelli che fanno una riflessione di questo genere. Lasciamo stare, chiedo la domanda di Maria dalla provincia di Ferrara e così andiamo all'ABC della richiesta di adesione al fondo. Maria, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, grazie per questa possibilità. Io le domande che volevo fare erano queste: innanzitutto volevo sapere esattamente i passi che bisogna fare per poter accedere, insomma, a questo fondo, cosa concretamente bisogna, insomma, fare. Poi un'altra domanda che volevo insomma porre era questa: siccome io effettivamente non ho perso il posto di lavoro e neanche mio marito, però abbiamo una situazione, diciamo, molto critica, in quanto insomma abbiamo un reddito molto basso perché io sono un part time, quindi comunque abbiamo una situazione reddituale molto complicata. Cioè, per intenderci, io sì, pago il mutuo, però ho serie difficoltà a fare la spesa, cioè, per essere chiari. Sì, sì. Quindi volevo capire, cioè, io posso rientrare nella soglia delle persone, insomma, che fanno questo tipo di domande eventualmente, cioè questo tipo di richieste. Allora Maria, beh, diciamo che le condizioni per il fondo di solidarietà sono molto stringenti e molto chiare. Maximilian non potrebbe accedere al fondo di solidarietà, detto questo però, data la condizione di difficoltà che ci ha raccontato, questa è una situazione tipica per la quale possiamo suggerire all'ascoltatrice una chiacchierata molto seria con la banca e magari rinegoziare il mutuo, se non l'ha già fatto la nostra ascoltatrice. Ma Maria l'ha già fatto? passata da un variabile a un fisso, quindi di fatto l'ho già fatto, però il fisso comunque è rimasto una rata molto alta. Molto alta, beh, magari allungare la rata allungare il piano di ammortamento. Maria, adesso valutiamo un po' tutte le opzioni che possono essere messe in campo per lei. Maximilian, mi aiuti? Più in generale, per Anna Maria e per chi di fatto non rientra né nel piano famiglie né nel fondo di solidarietà, perché per fortuna diciamo non ha perso il posto di lavoro, però è in difficoltà nel pagare le rate, il discorso è uno soltanto: bisogna cercare di andare in banca e cercare di far presente la propria situazione e cercare di trovare una soluzione con la banca. Attenzione, la banca, per la banca è una facoltà, non più un dovere, mentre il piano famiglie e il fondo di solidarietà sarebbe un dovere andare incontro alle persone che hanno una difficoltà, qua è una facoltà, la banca può ahimè rifiutarsi. Noi continuamente, anche da questi microfoni, continuiamo a dire che non è minimamente nell'interesse della stessa banca avere un mutuatario che ha difficoltà a pagare, perché per la banca ci guadagna quando uno paga regolarmente, cioè per loro Certo, non sempre in filiale si riesce ad avere una comprensione del genere, esatto. Però ecco, il passo da fare, pur essendo più costoso nell'arco di tutto il mutuo, è quello di allungare se possibile il mutuo, per cercare di abbassare la rata. Infatti, allora Maria, guardi, se non riesce ad intavolare magari una trattativa che si concretizza con un risultato con la sua banca, ci scriva. Poi magari qualche volta ci hanno aiutato tantissime volte, magari il direttore della banca è sordo, intervenendo con altri canali purtroppo il direttore della banca improvvisamente sente i messaggi che gli vengono dati, quindi provi a scriverci e vediamo se possiamo aiutarla. Maria però ci chiedeva come fare per chiedere questa agevolazione. Allora io qui mi rifaccio aiutare da Federica Rossi Gasperrini, presidente di Donne Europee Feder Casalinghe, e dobbiamo dire che proprio in virtù anche di questi aspetti da chiarire che porteranno ad un po' di ritardo nell'attivazione della procedura, la prima cosa da fare è sicuramente scaricare questo modulo che si trova sul Ministero dell'Economia, sul sito del Ministero dell'Economia, che però ancora non è pronto, mi pare, Presidente, giusto? www.dt.tesoro.it/fondo mutui prima casa, lo do, ma in effetti non è pronto. Non è pronto. Comunque si va su questo sito che è allestito ad O, si scarica il modulo, compilato si va in banca e si presenta la documentazione che attesta o la perdita del posto di lavoro, o la morte del congiunto percettore di reddito, o quelle condizioni impreviste che sono arrivate dopo l'accensione del mutuo. Come per esempio lei prima citava, non so, si è dovuto fare un lavoro straordinario in casa e quindi abbiamo dovuto sostenere spese di ristrutturazione importanti, sì, ma anche spese mediche. Ecco, quello che io reputo molto importante. Infatti, è questo. Concordo. In ogni famiglia oggi può succedere che una persona che era leggermente ammalata, s'aggrava e diventa un ammalato grave con dei costi enormi. Ecco, questo caso viene considerato ed è un principio di grande civiltà. Fino a 5.000 euro, se io a causa di malattie ho un costo superiore ai 5.000 euro annue, posso chiedere lo spostamento della rata. E dopodiché la banca, e questo penso che vada apprezzato, dovremmo imporci a che sia ottemperato, la banca, avendo ricevuto la documentazione che dicevo dal mutuatario, la trasferisce al Ministero, che ha dei tempi certi per dover rispondere, che sono 10 giorni. Dopodiché, anzi 15 giorni, sì, deve la dare banca nulla, deve inoltrare la domanda entro 10 giorni la a sua volta al Ministero. La verifica del gestore deve avvenire in 15 giorni, che ritorna la verifica e l'ok alla banca. In 5 giorni la banca adesso deve sospendere il mutuo, quindi diciamo, facendo i calcoli, in un mese, su richiesta ben predisposta, La famiglia può aver sospeso il mutuo. Prendendo... Posso dire una cosa sull'ISE? Sì, sì, no, volevo quando solo specificare, hanno... Presidente, una cosa sola, che parlando di 15 giorni, 10 giorni, prendendo in considerazione solo i giorni lavorativi, magari ecco tutto questo un pochino allunga ulteriormente da un mese, magari ecco promettiamo teoricamente una risposta in un mese e mezzo, uno stop effettivo in un mese e mezzo quando tutto sarà pronto per partire qua, ma questa è una riflessione mia così proprio molto banale. Diceva sull'ISE... Che il calcolo sia sull'ISE vuol dire una valutazione del nucleo familiare, perché è uno dei tre parametri su cui si calcola l'ISE. Quindi se Manuel ci chiede, volevo sapere se il tetto del reddito è familiare o può essere richiesto anche da uno dei due coniugi senza considerare il reddito complessivo. È una delle cose da chiarire, ce lo siamo chiesti, non è specificato se è un reddito familiare o reddito della persona che ha della persona o delle persone che hanno sottoscritto congiuntamente il mutuo. 800 24 00 24 è ancora il numero verde per poterci chiedere qualcosa in più rispetto a quello che noi stiamo dicendo su questo fondo di solidarietà che va ad aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento dei mutui. E sentirei adesso Piero da Bari. Sì, pronto? Buongiorno Piero. Sì, buongiorno, grazie per essere chiamato. Praticamente ho un mutuo di 10 anni, sì, variabile, e a prescindere che io quando l'ho fatto questo stavo bene, poi ho perso la vista, purtroppo il mio reddito poi è diventato più inferiore. Sì. E da 10 mesi sono andato, anzi 6 mesi fa vado in banca, che avevo 4 rate da trarre, e gli chiedo per essere congelato per un anno il mutuo. Mi mancano 3 anni insieme alla fine poi. Sì. E mi ha detto sì, si può fare. Tutto pronto era. Alla fine io come garante avevo mio suocero, perché mio suocero 2 volte è venuto a mancare e io non l'avevo comunicato in banca perché non andavo a pensare di congelare questo mutuo. Non si può bloccare perché mio suocero non l'ho comunicato che era garante. Certo. È una cosa strana. No, direi anch'io. Piero, però qua adesso io non ho capito bene, insomma, la perplessità mossa dalla banca, di fatto a pagare lui, di fatto nelle difficoltà ci si trova lui e il suo reddito è diminuito. Maximilian, che cosa facciamo? Intanto, indaghiamo un po' sulla banca? No, intanto è da capire se aveva richiesto alla banca il piano famiglie, se era l'applicazione del piano famiglie, ma non credo, perché lei non ha perso il lavoro, mi sembra di capire. No. Oppure era una semplice richiesta alla banca che le venisse incontro. In questo caso, come, purtroppo, le ripeto quello che ho detto prima, per la banca è una facoltà e non un obbligo sospendere. E questo vuol dire che la banca può tirar fuori qualsiasi cavillo, anche quello della storia del suo suocero. Mentre invece, venendo alle cose più pratiche, il fondo di solidarietà probabilmente potrebbe fare a caso suo nel caso lei abbia delle spese mediche, sanitarie, visto che ha avuto dei problemi con la salute. Se ha delle spese mediche documentabili superiori a 5.000 euro l'anno, dovrebbe poter richiedere, sempre se rientra nel criterio del reddito e certo, nel criterio del massimo di 250.000 euro richiesti. Quindi Piero, intanto insista in banca e si faccia dare una risposta rispetto a questa richiesta che ha fatto, ed eventualmente, appunto, se vuole, se ha l'opportunità, ci scriva anche, magari le daremo anche qualche indicazione in più rispetto al passo che può fare se rientra nei parametri richiesti dal fondo di solidarietà per potervi appunto accedere. E il tema appunto della spesa medica o di assistenza anche domiciliare, dice il fondo di solidarietà, mi sembra un aspetto appunto importante. Carmelo dalla provincia di Varese ci dà modo di approfondire ulteriormente alcuni aspetti sul funzionamento del fondo sui quali non siamo ancora arrivati. Carmelo? Sì, eccomi. Sì, buongiorno. Mi sento adesso? Sì, la sentiamo benissimo. Benissimo, grazie per avermi richiamato. Io volevo chiedere ai vostri esperti, a novembre io sarò collocato in mobilità dalla mia ex ditta, sì, e quindi riceverò la liquidazione. Posso lo stesso richiedere alla banca la sospensione? Inoltre volevo chiedere anche a costo zero e a costo zero per me. Certo. Carmelo, inoltre, sì? Per difficoltà cosa si intende? Una famiglia che si trova in difficoltà L'abbiamo già detto, la perdita, se si è verificata all'interno del nucleo familiare, Carmelo, la perdita del posto di lavoro, se è morto o se ha perso l'autosufficienza un familiare, se la famiglia ha dovuto affrontare il pagamento di spese medico di assistenza domiciliare per oltre 5.000 euro, se ha dovuto fare spese di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione della casa per oltre 5.000 euro, c'è anche un altro caso che, sul quale poi andremo, ma non è tra quelli più che si potranno, secondo me, verificare più frequentemente, almeno nel breve periodo. Queste sono le difficoltà a cui il fondo risponde. Federica Rossi Gasparrini, volevo chiederle un aspetto importante sul quale Carmelo ha fatto un riferimento. Se io sono una persona che è requisito per poter chiedere l'aiuto del fondo, mi costa qualcosa questa no. domanda? No, proprio perché il fondo interviene a questa dotazione di 20 milioni di euro per pagare le spese procedurali che servono per la sospensione e pagare gli interessi aggiunti per il periodo in cui il fondo, il mutuo è sospeso. È chiaro che alla fine della sospensione riparte il mutuo e viene e continua con un percorso che temporalmente è uguale a quello precedente. Certo. Io a Piero volevo dire una cosa. A Piero di Bari, sì. L'associazione che noi siamo, che è anche una holding delle famiglie, ha voluto un proprio strumento di servizio, un patronato, a Bari c'è, si chiama Informa Famiglia, e stanno studiando tutti gli adempimenti per essere vicino alle persone che pensano di poter accedere al mutuo o trovare soluzioni diverse. Vi mettiamo in contatto allora. Noi ci siamo, ecco, una volta che avesse bisogno Piero attraverso di voi, noi possiamo, spero, intervenire e aiutarlo. Eh sì, qualche volta serve una telefonata un po' più autorevole alla banca per far smuovere certe pratiche che magari sono lì e solo per scarsa volontà non si velocizzano, perché io non penso che qua non si possa in qualche maniera dare una risposta, che potrebbe essere anche un no a questa persona, e magari studia un'altra alternativa, non si capisce perché invece vanno avanti così i mesi senza nessun tipo di risposta, né in una direzione né in un'altra. Eccoci di nuovo in diretta. Volevo tornare alla presidente Federica Rossi Gasparrini sulla modalità con cui praticamente si è interrotto il rapporto di lavoro per l'ascoltatore che ci ha chiamato prima, Carmelo dalla provincia di Varese. Non ha subito un licenziamento. La mobilità, esatto, viene comunque una definizione di licenziamento. Quindi credo. È perdita del posto di lavoro, può essere contemplato in questa casistica, sì, l'ascoltatore? Parlo per competenza, perché come sono stata sottosegretario di Stato con la delega al lavoro, alle sindacali e contratti. Si tratta, però, è stato molto importante ascoltare Salva Dannaio questa mattina. Ho segnato tutti i passaggi, abbiamo già chiesto un incontro a Tremonti settimana Ventura per chiarire ogni cosa che rimane sospesa. Certo. Questa dell'ascoltatore è uno dei punti che vanno chiariti. Gliene propongo un altro, presidente. La mobilità sia licenziamento. Gliene propongo un altro di punto non chiaro, e sì, ce lo facciamo dire da Angelo da Torino. Angelo. Sì, buongiorno, chiedo appunto, la mia domanda era proprio questa. Volevo chiedere se da lavoro autonomo, quindi io cesso la mia attività, e se comunque anche questa rientra nella possibilità offerta dal fondo di solidarietà. Esatto, perché io come lavoratore autonomo ho chiuso la mia attività a dicembre, volevo aderire alla proposta dell'ABI, e però la mia banca me l'ha negata. Esatto. Perché mi ha detto che non ero dipendente. Esattamente, Angelo, perché anche il piano famiglia non ha dato la facoltà ai lavoratori autonomi di chiedere la sospensione del mutuo, o perlomeno quasi tutte le banche, Maximilian, qualcuna di sua spontanea volontà lo ha fatto, poche, è stato un punto molto discusso, perché qui c'è il problema di capire quando veramente si cessa l'attività, perché l'ascoltatore di dimostrare appunto parlando con l'ABI che uno ha veramente cessato l'attività, l'ascoltatore ha chiuso la sua attività, ma niente vieta di aprirne un'altra, insomma, per cui questo è il problema, questa è l'obiezione delle banche. Cioè, non toglie che alcune banche, evidentemente non quella dell'ascoltatore, hanno inteso estendere la possibilità del piano famiglie anche ai lavoratori autonomi. Però ecco, questa è stata una delle delle possibilità in più che hanno dato soltanto alcune banche che potevano derogare ai limiti fissati dall'ANCI. Presidente Rossi Gasparrini mette anche questo punto nella sua agenda da chiarire con Tremonti. Lo mettiamo, ma questo sarà un punto difficile. Che può essere modificato solo con la norma. Cioè, mentre il fondo ABI dà alle banche una propria libertà di scelta, il fondo famiglia è regolato da una norma legislativa. Però io credo sia importante. Le banche non sono molto contente quando arriva una norma che impone loro che cosa devono fare, quindi sarebbe un gran bel successo se riusciste ad inserire con qualche ulteriore emendamento poi durante magari qualche... Ha ragione, perché è un'osservazione importante, perché ci sono imprenditori, piccoli imprenditori che non reggono e devono lasciare il lavoro, chiudere l'azienda, e vederli come non aventi diritto a dei sostegni mi sembra non corretto. Piccoli imprenditori ci che hanno subito esatto, che hanno subito di tutto, dalle banche, revoche radicali, improvvise degli affidi, insomma. E oggi le imprese vivono momenti delicati e quindi ci mancano pure i mutui nelle famiglie. Vanno sostenuti. Diceva prima che lei era un po' così subissata da contestazione perché si aiuta chi non ha fatto bene il programma della non moltissimi, vita. Non moltissimi, però insomma qualcuno allora sempre... Posso ricordare che in Italia in questo momento sono in cassa integrazione per la crisi mondiale, non locale, oltre 1 milione di lavoratori. E l'augurio è che tutte le aziende possano riassumerli tutti, ma forse questo è un po' difficile che avvenga, quindi un numero anche minimo rimarrà senza lavoro. Quando ha preso la casa, il loro sogno era di avere il lavoro e di continuare ad averlo, non era un programma di persone poco attente, era un programma di un cittadino che viveva in una certa condizione che poi è cambiata. E infatti io sposo completamente la sua riflessione, che a me sembra anche tra l'altro molto scontata e banale, ma per qualcuno non lo è. C'è chi ci richiede il nome del sito dove cercare informazioni sul funzionamento del fondo di solidarietà. Io il nome del sito ve lo do, non è ancora allestito, però magari ve lo tenete a mente, così quando sarà pronto noi prontamente ve lo reindicheremo e quindi potrete andare a controllare l'evoluzione del funzionamento del fondo di solidarietà: www.dt.tesoro.it/, che è la barra trasversale, fondo mutui prima casa. È anche piuttosto lungo, però magari lo mettiamo anche sul sito di Radio 24, sperando che si attivi al più presto. Cristian da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo sapere se rientravo nel mutuo di solidarietà, nel fondo di solidarietà, se devo acquistare un macchinario per fare una terapia medica a mio figlio, e questo macchinario costa 7.000 euro. Quindi volevo sapere, però il mio stipendio e di mia moglie rimane lo stesso. Certo. Volevo sapere se anche con queste condizioni potevo richiedere la sospensione del mutuo. No, tra l'altro grazie Christian, un bacione al suo bambino. Maximilian, ovviamente il pagamento della spesa di assistenza medica, in questo caso, che dovrebbe ammontare, Christian non ce l'ha raccontato, mi pare 7.000, che sia oltre 7.000 euro, e il reddito devono essere due ovviamente condizioni parallele, insomma, devono viaggiare di pari passo. Sì, deve rientrare anche nella condizione del reddito, cioè il suo reddito equivalente deve essere inferiore a 30.000 euro, questo sì. Poi si deve verificare un'altra di queste condizioni che abbiamo prima elencato, e che c'è, perché la spesa di 7.000 euro mediche per un familiare che è a carico esiste, per cui secondo me da questo punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. Controlli il suo reddito. Perché se esatto, è superiore, no, ricordiamo che non è l'imponibile complessivo su cui, come dire, si fa pagare l'IRPEF e tutte le imposte sul reddito. L'ISEE è un'altra cosa, si calcolano anche le proprietà immobiliari, tutta una serie di cose, di parametri, quindi non è la stessa cosa. Magari paradossalmente qualche volta ci si può rientrare, anche se si immagina che sulla base del reddito complessivo percepito questo non possa essere possibile. Invece sì, è ovvio, se le famiglie sono particolarmente numerose è chiaro che il reddito equivalente scende. Questo non me ne voglia Christian, ha anche un motivo. Una persona può sì avere da pagare questi 7.000 euro purtroppo per spese mediche per il figlio, ma se ha un reddito particolarmente elevato, forse non è una persona che ha bisogno. È brutto ma dirlo, ma è il motivo per cui è stato piazzato un tetto al reddito. Bisogna cercare proprio, il fondo è quello che è, e poi probabilmente potrà essere anche rimpinguato, bisogna cercare proprio le persone che ne hanno effettivamente bisogno di sospendere le rate. Allora, per chi vuole aderire al piano famiglia, l'ha già fatto, comunque ha ancora questa facoltà entro il 31 gennaio del prossimo anno. Il fondo di solidarietà ovviamente sta partendo con tempi radicalmente diversi, non ha però posto un limite. L'unico limite, dicevamo appunto, è probabilmente l'ammontare complessivo della risorsa disponibile, ma anche questo lo si dovrà vedere. Federica Rossi Gasparrini, comunque teoricamente almeno dobbiamo, come dire, prevedere un aiuto alle famiglie fino a quando la crisi non sarà superata completamente. Sarebbe logico, una volta introdotto un diritto nuovo, mantenerlo, certo legandolo a condizioni, come è stato fatto, di particolare disagio per chi accede il mutuo, ma nulla vieta che possa andare avanti, anzi io spero che possa andare avanti nel tempo, per cui anche chi compra casa con un mutuo e sa di avere una salvaguardia può affrontare questa spesa con un po' di serenità, perché quando scrivono le persone che hanno la casa all'asta perché è stata espropriata, lei incontra persone in una situazione drammatica, poter dar loro il diritto di ricostruire una condizione di sicurezza, penso che un paese civile lo debba fare. Le dico che ci sono altri paesi che stanno pensando di copiarlo. Ah, molto bene, ci faccia sapere allora chi per una volta tanto ci guarda con ammirazione, che insomma, qualche volta siamo ben contenti anche di raccontare questi aspetti, visto che siamo sempre citati in Italia come i peggiori su tutto, quelli che hanno i costi dei mutui, dei conti correnti più alti e tante altre cose, almeno una volta tanto ci copiassero per qualcosa di buono, che non sia solamente il cibo e questo. Allora, io devo chiudere perché ho 30 secondi, però solo una cosa, Maximilian, il regolamento previsto per che individua insomma tutti i passi da fare per poter ottenere questo stop al mutuo, parla dell'acquisto della prima casa, parla di mutui a tasso fisso e a tasso variabile, non si fa menzione però, come dici tu, sul sole delle forme intermedie, le formule con protezione, il CAP eccetera. Anche questo è un aspetto da chiarire. Sì, è un aspetto da chiarire. Acquisto prima casa, però immagino anche costruzione e ristrutturazione, perché no? Se l'idea è quella di estendere al massimo la possibilità di andare al massimo incontro a chi ha difficoltà, non vedo perché queste forme non siano non debbano accedere. L'altro problema è quello dei mutui cartolarizzati. Ah, ecco, capirai. Che dovrebbero rientrare. Questa me la voglio vedere tutta. Maximilian, grazie per essere stato con noi. Presidente Rossi Gasparrini, io la, come dire, precetto già, immagino così, a spanne per la seconda metà di settembre, per vedere come va? L'auspicio che accolgo con benissimo piacere. grazie. C'era Michele da Bergamo che voleva intervenire, lo vedo solo adesso. Michele, ci scriva, noi le risponderemo senz'altro. Grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori in assistenza tecnica. Torniamo domani con Salva Danaio. Da Deborah Rosciani, buona giornata.